Dobbiamo temerlo, fuggirlo, lo scoraggiamento, il pessimismo, ti taglia le gambe. Chiunque tu sia, sia tu una persona innocente o sia una persona penitente, lo scoraggiamento ti taglia le gambe. Cosa vuol dire? Ti toglie sprint, ti toglie coraggio. Lo scoraggiamento è contro il coraggio, sentite anche la parola. Ti toglie l'entusiasmo, ti toglie le forze, ti toglie le energie naturali e sovrannaturali per riprendere da capo. Quindi il nemico che dobbiamo odiare di più, veramente odiare, è lo scoraggiamento. Non c'è motivo di scoraggiarsi mai, finché siamo a questo mondo. Dicevo scherzando ai chierici qualche giorno fa, prima di partire da Roma, al mattino quando vi alzate, cioè quando suona la campanella, vengo a chiamarvi e palpate un po' il naso. Se sentite che è caldo, siete ancora vivi. Se sentite che è freddo, siete morti. È una scherzo, una sbazzelletta, capite, no? E noi diciamo, al mattino, è un giorno nuovo, sai? Sei ancora caldo, il tuo naso è caldo, sei vivo. Vuol dire naso caldo, caldo del calore dello Spirito Santo, che quando si è fatto intendere nel cenacolo di Gerusalemme è apparso come fuoco. Lo Spirito Santo è fuoco, e il fuoco riscalda. Al mattino ti alzi, palpa il naso, palpa l'anima tua e sentirai che è calda, perché ti vivifica ancora lo Spirito Santo che Signore e dà la vita, e te la dà per amore, te la dà perché tu ami Lui. Ami la tua famiglia, ami i tuoi amici, ami tutta la Chiesa, ami il mondo. Oh, se è importante dunque al mattino, ogni giorno, sentirci caldi. Il caldo è simbolo di vita. Quando un corpo è gelido, è uno spavento. Non c'è più vita, è freddo cadavere. Un'anima senza questo calore è cadaverica, è un'anima veramente finita, fallita per l'eternità, roba da far raddrizzare i capelli, falliti per l'eternità, quando non fossimo caldi di questo amore di Dio che è Signore e dà la vita, il caldo dell'amore, caldo della fede, della speranza, della carità. Caldo della grazia santificante, calore di intimità divina, santità di vita. Finché siamo a questo mondo, non c'è motivo di scoraggiarci mai, mai, mai. Finché siamo caldi di amore di Dio e del prossimo, noi non siamo mai falliti. Siamo sempre figli santi di Santa Madre Chiesa. È bello questo. Vedete di alzarvi ogni mattina, carichi di questo calore, che è fervore spirituale, entusiasmo, pazienza, allegria, serenità, coraggio in una parola, coraggio, coraggio. Se fossimo da soli, non avessimo proprio nessuno che ci capisca, potremmo essere anche scoraggiati, ma siamo nel cuore di Dio, siamo tra le braccia di Dio. Quelle braccia che sono molto più affettuose delle braccia della moglie, dei figli, degli amici. Nessuno ama tanto come ama Dio. L'amore del papà e della mamma sono invenzioni di Dio. L'amore dei fidanzati, l'amore degli amici, l'amore dei fratelli, tutte invenzioni di Dio. È Dio l'autore del cuore umano, maschile e femminile. È Dio l'autore della affettività. È Dio è amore. Dio è carità, Dio è affettività immensa, Dio è fiamma, Dio è fuoco. Che si appicchi questo fuoco al nostro cuore e non sentiremo mai quella triste solitudine che porta allo scontento, allo sconforto, al pessimismo, a quel ripiegamento su noi stessi che talvolta può risvegliare passioni volgari.